beh, Billy, su che andiamo. Ma dove vuoi andare, Emanuele? Poi, biondo. Beh, come va? Lui a stanco sono, oggi sono a pizzi, a pizzi, a pizzi, a pizzi. C'ho la testa sciolta, Natali, lascia perdere. Loro tornavano a Palermo, da Altavilla. Sei appena tornato? No, sono appena arrivato. Appena arrivato, domani mattina alle 5 e mezza. Domani alle 5 e mezza. Stamattina non c'avevo voglia, non c'avevo voglia neanche di alzare, pensa a tu. Immagina le posizioni. La luce, mi faccio una bella luce, rilassante. E la burro si go, anzi, prima Mario. Allora mi posso, prima la luce, la prima la burro si go. Faccia come se fosse a casa sua. No, non si può lanciare. Dopo da scherare c'è il caso. Io lo so. Hai fatto 12 ore, non è che è uno scherzo. Oggi cazzo ho controllato tutti quelli che entravano. Se non va via nel tesserino, non entravano. Dopo che tedeschi, non comprendere una fanculo cinese. Ci sono tedeschi? Ma tedeschi vengono qua, devono parlare l'italiano. Non è che cazzo siamo noi che dobbiamo farvi dare l'inglese, no? E purtroppo non è così. Ma per carità, che ci lavorano i tedeschi lì? Scusa, tutti i tedeschi sono italiani, vuole usare una ventina. Certo. E pensando in che condizioni siamo noi. Scusate per rendere il loro omaggio. E tu che gli amici li ammazzali tutti? Come se... Ah, non capiscono un cazzo, dopo che prendono pure. Le prendono pure. Io lo credo. Uno non può sapere pure un tedesco, no? E infatti la gente lo deve bucare, mica io non so un tedesco, l'italiano lo devono parlare loro, non è che mi devono far capire con i gesti. E infatti. E adesso mi ci metto una bella pizza in forno, ticcere sacche. E allora nel frattempo ti fai la doccia e quando ne ci dirà mai. Cazzo di mangiare, non fare in tutta la vita, vi grido. Non voglio giocare, manco di mangiare. Ehi, quando uno è stanco, molte volte a me faceva così, non mi faceva venire voglia di mangiare quando ero stanco così. Ma ti fanno girare il coglione, non è che ero stanco, il coglione ti fanno girare. Tutto, tu sei accumulato dai taglienti. Non sei uscito, Natali? Stamattina sono uscito. Cazzo, oggi sembrava che piovava, a poco eva. Cazzo, è uscito un po' così da sole, un po' così da volava. E cosa vuoi fare? Domani sera devo andare a fare la visita agli occhi per prescrivermi gli occhiali. Ma devo fare anche io la visita perché cazzo mi si andrebbe la vista da vicino. Nell'altro c'era una sola SIM, quindi ci si chiede perché è stata fatta. E a pagamento burro deve andare, chi non viene la necessità di comunicare. E già lo so, 60 euro, vicino a Tonto Soccorso. Ma lui tu di chi tu è in via Luca degli Abruzzi? No, io vado lì a... Vado lì che è andata anche mia nipote, vicino a dove c'è la via, mi sa dove facevano... dove c'è il coso della... che vengono le pile, via l'Italia, al semaforo che giri a destra, in quel discesa c'è un ambulatorio dove fanno le visite a pagamento. Che via è quella? Via Rockefeller. E via Rockefeller è quella dei carabinieri che scende giù poi. Non è via Rockefeller quella. E che via è quella lì? Non lo ricordo che via è. Comunque dove c'è il semaforo a destra che scende giù, che ti porta direttamente all'ospedale. Sarà via Montegrappa. No, non è via Montegrappa quella. E boh, io ho l'appuntamento con questa, in via Viaduca degli Abruzzi, alle 6 domani sera devo andare. Ragazzo, vai, mi ha detto 50 la, quella dell'Uttico, perché me l'ha dato lì il numero per telefonare. Buono, 10 euro e meno, adesso ne può 60. E vabbè. La primogenita di Giovanni Barreca arrestato con Sabrina Fina, il massimo. Meno male che mi fa piglia poco. È complice degli omicidi. Dieci euro e meno, già vabbè. Ha confessato di aver partecipato attivamente. Tu si sta buiando dall'ottica della madre e dei suoi due fratelli e gli ordino gli occhiali. Rifarei tutto, dovevamo liberare, perché mica me li fanno subito, che bisogna aspettare le 20 da Cagliari per me. Chissà quanto mi gusta sull'ultimo anno.